Porretta Prog. Marco, come nasce tutto ciò? Allora, questa iniziativa nasce dopo una programmazione delle due estati precedenti che ha per nome Buonanotte ai suonatori, che resta come sottotitolo Porretta Prog e Buonanotte ai suonatori. È un'iniziativa che nasceva da un libro che parlava delle realtà musicali del territorio di Alto Reno Terme, da un libro scritto da Marco Giorgio Cespugli, dottore e batterista, che fa parte della direzione artistica insieme a Guglielmo Bibi Bernardi e Gianni Landroni. E nei due anni precedenti abbiamo programmato appunto artisti del territorio con due ospiti nazionali. Abbiamo deciso di passare al terzo anno di qualcosa che avesse un respiro nazionale e internazionale, ospitando grandi nomi della storia del rock progressive, perché riteniamo che il progressive in generale sia stato qualcosa di fondamentale per la storia della musica contemporanea. Diciamo, è la parte più alta di sperimentazione, di ricerca, tra virgolette, più colta del rock. E abbiamo quest'anno invitato tre grandi nomi, che sono i Soft Machine, i Caravan e Martin Barr, storico chitarrista dei Jethro Tull, con la sua nuova band. Quindi delle rassegne che vanno a crescere assolutamente, non solo nei contenuti, ma nella storicità anche. La presenza di questi elementi ha portato un sacco di lavoro, immagino, per creare tutto ciò. Sì, sono molti mesi che lavoriamo a questo evento, piuttosto complicato e interessante del resto. Tu pensa che Soft Machine e Martin Barr vengono direttamente dal Festival Rock Prog di Canterbury, che forse è il più importante festival di prog mondiale. Nei giorni precedenti a Porretta, loro sono a Canterbury, poi arrivano e si presentano sul palco del Rufus Thomas Park di Porretta. Ormai Porretta è una capitale della musica in estate. Porretta è denominata per volontà anche degli amministratori, cui siamo grati per la loro sensibilità verso la musica e la cultura in generale, è diventata una città della musica. Certo, e sicuramente con Porretta Prog 2019 avanza ulteriormente, ma è curiosità che nasce spontanea, formazioni dei tempi, formazioni che ritroviamo rimaneggiate o... Guarda, per quanto riguarda i Soft Machine abbiamo una formazione importantissima nella lunghissima storia del gruppo. È la formazione praticamente che ha fatto i dischi tra il 71 e il 76 circa. E abbiamo Roy Babington al basso, John Eldridge alla chitarra, il mitico John Marshall alla batteria e poi uno più giovane, Theo Trevis, polistrumentista di grandissimo livello, sassofono, flauto, tastiere. Quindi proprio abbiamo dei personaggi di interesse veramente internazionale, grandi musicisti. I Caravan sono un altro gruppo di culto assoluto con Ty Hastings, cantante storico, e altri elementi che fanno parte della storia dei Caravan, come Richardson. E poi Jethro Tull, Martin Barr Band, vabbè, lo sappiamo. Martin Barr è considerato comunque uno dei chitarristi più interessanti della storia del rock e del prog. Ormai si è separato da Ian Anderson da alcuni anni e porta in giro questo suo repertorio, che prevede in buona parte musiche che eseguiva con i Jethro Tull e altre cose sue nuove. E poi tutti abbiamo nel cuore la sua chitarra di Aqualung, certo, che sicuramente ci riproporrà. Eh sì, c'è una grande passione, un grande entusiasmo intorno al prog. E cos'è stato per te il periodo prog, Marco? Ma molto importante, sai, perché io che ho una formazione musicale che nasce da ragazzino appunto con il rock e con il pop e con i Jethro Tull e poi con la parte più accademica, il conservatorio, gli studi, ma il prog è stato quello che per quelli della mia generazione ha allargato gli orizzonti, perché in questo linguaggio musicale ci sono influenze fondamentali della musica classica, del jazz, della musica elettronica, della ricerca, della sperimentazione. Tutti quelli della mia generazione, ma devo dire anche i più giovani, i più attenti, amanti della musica, si sono, come dire, costruiti una cultura musicale vasta, ampia, che li ha portati poi a approfondire altri settori. Ma io devo dire che poi si ritorna volentieri a questo mondo di mélange musicale che è il rock progressive. E poi all'immagine, le copertine dei dischi prog, l'immaginario epico, nordico, gaelico e non solo, già i nomi dei gruppi che riportano a situazioni mitologiche particolari, giganti, folletti, certo, fate, sì, boschi incantati, incantati, è veramente perdersi in un bosco incantato, ascoltare il prog. Assolutamente sì, e poi direi che c'è stato e c'è ancora un movimento artistico intorno a questa musica, perché appunto, come dicevi, se noi ricordiamo le bellissime copertine degli album, dei Genesis, dei King Crimson, dei Gentle Giant, quindi è un settore che, come dire, si allarga anche oltre al suono. Insomma. Ulteriormente, abbiamo questa possibilità, 4, 5, 6 agosto, Rufus Thomas Park, a Porretta Terme, Porretta Prog, estate 2019. Sì. E altre informazioni che vuoi dare, Marco? Informazioni importanti, sono in vendita online su botteghinoweb.com i biglietti in prevendita, il costo è molto contenuto, sono 20 euro a serata, 22 con la prevendita, e esiste la possibilità di fare un abbonamento a 45 euro per le tre serate rivolgendosi allo IAT di Porretta Terme. Io do anche il numero di telefono per sicurezza, 0534 52 1103, e comunque c'è la pagina Facebook Porretta Prog su cui si possono assumere tutte le informazioni. In quella tre giorni Porretta sarà caratterizzata da una stand di street food, bancarelle con i dischi, insomma un vero festival. Sì, un vero festival, sì, da non perdere, il primo di una lunga serie, speriamo. Certo, Radio Città Fujiko c'è. Grazie Marco. Grazie a te, ciao.